abbigliamento di Alino, togone da magistrato, parruccone ricavato da lana da materasso e bilancia due piatti per un'equa lettura dei giornali. 24 mattino. Ci siamo, cari ascoltatori, eccoci qua, sono le 7:19 minuti, tra qualche secondo, con gli scampoli di voce che vi rimangono, eccolo qua, Peter Biscaperri, c'è, che stavi guardando al computer, con Lorenzo Nespoli. A posto? Le inchieste giornalistiche a posto? Bene. Allora, siamo qui, questo è lo spazio della rassegna stampa, la lettura dei giornali di 24 mattino. Andiamo, Peter! Non c'è niente di più divertente che commentare i giornali, ragazzi. È martedì 7 febbraio, intanto i titoli, la maggior parte delle aperture sono dedicate a Draghi, che difende l'euro, allo spread che supera quota 200, questo è proprio il titolo di prima pagina del Sole 24 Ore. Eccolo qua invece il Corriere della Sera, Draghi in difesa dell'euro, per Repubblica invece lo spread a quota 200, Draghi avverte Le Pen, l'euro è irrevocabile. La Stampa, alto là di Draghi, l'euro non si tocca. Il Messaggero, onda anti-euro, muro di Draghi. Mentre per Il Giorno, vola lo spread, addio voto. L'apertura del Manifesto è muro contro muro e c'è una foto del governatore della BCE Draghi in prima pagina. Anche per Avvenire, questo è il tema principale, ballo triste d'Europa, Draghi rassicura, euro irreversibile, ma è bufera, lo spread sale a 200. Ci sono altre aperture, come quella della Verità, che si concentra sugli immigrati, definiti un pozzo senza fondo, ci costano oltre 4 miliardi l'anno, l'Unione Europea ci rimborsa solo 100 milioni. Questo è il titolo di prima pagina. Ne vedremo altri, voglio iniziare subito ad approfondire qualche lettura, a cominciare dal tema della scuola, visto che ci ascoltano tanti studenti, obbligati dai genitori ovviamente, vorrebbero ascoltare musica, vorrebbero mettere Rovazzi più piccoli, vorrebbero mettere altre radio, ma qui su Radio 24, prima di entrare a scuola. E allora, sappiate che c'è un'indagine, lo racconta Repubblica a pagina 20 con Salvo Intravaia, in Campania e Sicilia i ragazzi saltano la scuola il doppio che in Veneto, sono le assenze alle superiori in aumento in tutta Italia, si perde in media un giorno su 10. Scrive Repubblica, a Milano si bigia, a Roma si fa sega, a Napoli si fa filone, ma la sostanza è la stessa, saltare la giornata di scuola o solo qualche ora per dribblare un'interrogazione o approfittare di una giornata di sole, soprattutto al sud. E nonostante la norma introdotta dall'allora ministro Gelmini sul numero massimo di assenze per essere promossi, vale a dire non si può saltare più di una lezione su 4, i numeri sono in aumento. Lo rivela il RAV, i rapporti di autovalutazione delle scuole che conteggiano il numero medio di ore saltate per indirizzo scolastico, per classe e per regione. L'ultimo dato è relativo al 2014-2015 e dice che in media gli studenti italiani sacrificano un giorno di scuola su 10, una percentuale in crescita rispetto all'anno precedente in tutti gli indirizzi, dal classico al professionale, dove i numeri, soprattutto al professionale, si fanno preoccupanti. Soprattutto si bigia, lo dico alla milanese, al sud, ma comunque questo è il dato, certo un po' inquietante, relativo al mondo della scuola. Rimango su Repubblica perché c'è in qualche modo una puntata 2 rispetto all'articolo che abbiamo letto ieri e che coinvolgerebbe, bisogna usare in questo caso veramente il condizionale, il Cardinal Sepe a Napoli. La storia è molto dolorosa perché racconta di un uomo, il suo nome di fantasia è Diego Esposito, che ha denunciato il Cardinal Sepe anni fa, e si parla di 28 anni fa, insabbiò le violenze che ho subito da un prete. La Curia di Napoli ribatte, come scrive Repubblica, nessuno ha insabbiato, la vittima dice non mi fermo, è scontro dopo le accuse al Cardinal Sepe. Dalla Curia dicono non abbiamo trovato riscontri, per noi il caso è chiuso. Questa storia però mi permette di saltare la pagina successiva, pagina 15. Giuliano Foschini racconta una storia che ha sempre come protagonista un prete, o meglio un ex prete perché è stato poi spretato, e un gruppo di giovani. La storia, solo a leggere nel titolo, è terribile. Sentite qui, cacciato in segreto per abusi, l'ex prete va a fare l'allenatore e violenta 11 baby calciatori. Scrive Giuliano Foschini, avevano scoperto tutto, eppure non l'hanno mai denunciato. Gli hanno fatto togliere l'abito talare per quei delicta cum minoribus, così in latino. Seppur per tutti era rimasto Don Gianni. Eppure non hanno battuto ciglio quando ha cominciato a allenare una squadra di calcio di ragazzini. Scriveva il 16 marzo 2012 la Congregazione per la Dottrina della Fede, l'ex Sant'Uffizio, non divulgare i motivi del suo allontanamento per evitare scandalo. Così si legge nel provvedimento di dimissione dello Stato clericale. Non parlava la curia, non denunciava per evitare scandalo, mentre quello si prendeva la vita non di un bambino, non di due, ma di un'intera generazione di questo piccolo paese della provincia di Foggia, un borgo che ha perso forse per sempre la sua adolescenza. Questa è la storia di Gianni Trotta, poi Don Gianni, infine Gianni e basta. Comunque, scrive Repubblica, un pedofilo in ogni momento della sua vita. Oggi è in carcere, condannato a ottobre del 2015 a 8 anni di reclusione per violenza sessuale aggravata nei confronti di un undicenne e anche di produzione di materiale pedopornografico. Ma oggi Trotta tornerà in aula per reati commessi nei confronti di un'altra decina di bambini tra gli 11 e i 12 anni. La storia è terribile, la trovate su Repubblica, in prima pagina, poi continua a pagina 15. Oh, oggi allegria, eh? Allegria, sentite qui. Succede invece a Savona. Lo racconta La Stampa, mazzette dai migranti, arrestato un viceprefetto. A Savona sono coinvolti un funzionario della prefettura, anzi due funzionari e un poliziotto. Che cosa facevano? Permessi di soggiorno rapidi, sanzioni ridotte, pratiche della prefettura in cambio di verdura, cene gratis, anche una liposuzione. Una liposuzione. È una liposuzione. Questo racconta pagina 16 La Stampa. La lista dei desideri era questa: cenare nei ristoranti degli amici senza pagare il conto, magari dopo aver fatto accogliere il ricorso di un dipendente del ristoratore, oppure farsi fare la spesa gratis, la liposuzione, tutto in cambio di favorire e velocizzare le pratiche in questura e in prefettura. Questo lo racconta La Stampa a pagina 16. Questa invece è una storia che ha dell'incredibile e che racconta Luigi Ferrarella in prima pagina del Corriere e poi a pagina 21, è un'esclusiva che ha solo il Corriere, riguarda una coppia di italiani della regione Veneto che rischiano l'estradizione in Brasile per una vicenda di questo genere. Hanno maltrattato la colf brasiliana, questo secondo le accuse di questa colf, e questa donna che è tornata in Brasile li ha denunciati in Brasile e rischiano l'estradizione. E Luigi Ferrarella giustamente scrive: è lo stesso Brasile che non ci consegna Cesare Battisti, terrorista condannato per 4 omicidi da anni. E invece marito e moglie italiani rischiano l'estradizione in Brasile sulla base solo di una denuncia della loro ex colf brasiliana presentata là, ma per reati che si ipotizzano accaduti in Italia. La Cassazione, tra l'altro, ha ammesso punti critici nelle norme, ma in base ad esse spiega di non avere margini di manovra e ha autorizzato la consegna. E dunque solo un atto del guardasigilli, cioè il ministro della giustizia, può ora fermare questa estradizione. E giustamente scrive Ferrarella, non è solo il protagonista di Kafka nella Metamorfosi a svegliarsi scarafaggio, può capitare a tutti di alzarsi la mattina e scoprire che si sta per essere estradati dall'Italia in un altro paese, il Brasile in questo caso, non in esecuzione di una sentenza, ma solo perché quel paese ha chiesto all'Italia, sulla base esclusivamente di una denuncia di un proprio cittadino, l'arresto del cittadino italiano per fatti in ipotesi commessi anche in Italia. Succede in provincia di Verona, succede a marito e moglie italiani, 4 figli, denunciati per aggressioni fisiche anche a scopo sessuale, minacce, violenza psicologica da loro ex colf, e la Corte d'Appello di Venezia ha già stabilito che, nonostante il parere contrario del procuratore generale di Cassazione, si può procedere con l'estradizione. Sembra abbastanza incredibile, ma è così. Ma eccoci qui, siamo al momento dell'articolo che mi fa pinzare della giornata. Siamo all'articolo da Mani sul Volante oggi. Dovete tenerle ben strette. Anzi, vi faccio un invito: fate un pienone di benzina che non finisce più. ma un pienone di quelli che la mettete nel garage, la mettete in cantina, date alla suocera, al suocero, ai nipoti, a tutti. Lo so che non si può, però voi fatelo lo stesso. Perché guardate che cosa ti sta partorendo il governo italiano. Una delle idee più innovative, più nuove, geniali, mai sperimentate prima. Le tasse più care di 2 centesimi sulla benzina, signori. L'ipotesi sul tavolo del governo, racconta Mario Sensini a pagina 5, è questa. Un aumento delle accise sulla benzina di almeno un paio di centesimi. Così, per avviare la correzione del deficit pubblico del 2016. E ci sono anche tutti i dettagli. Con 1 centesimo di aumento dell'accisa si recupereranno circa 400 milioni di euro per l'anno. Con 3 centesimi si garantirebbe la copertura delle spese per il terremoto aggiuntive a quelle già stanziate in bilancio. Ma sì, ma allora facciamolo di 4, di 5, di 6, di 7, che così copriamo tutte le spese, tutte. Non è possibile una roba del genere, vergognatevi, cazzo! Forza Inter! Non succede nulla, grande squadra cinese, lo stesso grande Pioli. Vai avanti, forza! Meno male che c'è il Milan! Noi accogliamo davvero tutti, le nostre porte sono aperte, lì ci sono anche delle camicie bianche molto costringenti, se servono, caro Peter Bescapè. Comunque, bene, ringrazio i nostri ascoltatori. Allora, come detto, l'attualità vede i mercati globali un po' in tensione, per usare un eufemismo, lo spread è salito oltre 200. Racconta Vittorio Carlini, sono a pagina 2 del Sole 24 ore. Francia, incertezza politica spingono lo spread oltre 200. Sono i crescenti timori politici, soprattutto in Francia, con gli ultimi exit poll che indicano che il partito del Front National di Marine Le Pen ha preso forza nella corsa alle presidenziali. La minaccia di eventuali ulteriori uscite da Eurolandia può spingere all'insù i rendimenti. È insomma la variabile politica, come già accaduto nel 2016, a far sentire il peso sui mercati. Anzi, lo rafforza ancora di più un contesto in cui gli operatori, schiacciando il pulsante del risk off, cioè fuori dal rischio, ieri hanno sospinto lo spread tra i BTP italiani e i Bund tedeschi su livelli che non si vedevano dall'ottobre del 2014. I mercati sono con turbolenze. E Draghi che fa? Draghi difende l'euro, soprattutto dagli attacchi che provengono dagli Stati Uniti, da Trump, soprattutto da un esponente della nuova amministrazione americana, vale a dire Peter Navarro, che ha sostenuto ieri, come scrive Beda Romano a pagina 6 del Sole, che l'euro è grandemente sottovalutato e di ciò starebbe approfittando la Germania. Ecco allora che Mario Draghi, in un suo intervento pubblico, ha difeso, definendo molto preoccupante, l'annuncio di Washington di allentare le regole finanziarie adottate nell'ultimo decennio e definendo irreversibile la questione euro. Irreversibile perché non si esce dall'euro, lo prevedono i trattati. E quindi è chiaro che bisogna verificare che cosa succede. In tutto questo, mentre i mercati sono davvero pieni di turbolenze, l'Italia deve capire cosa fare con la manovra finanziaria aggiuntiva, perché l'Unione Europea ci chiede 3,4 miliardi di euro, lo sapete, lo 0,2% del PIL. E giro allora pagina, sempre rimanendo sul Sole 24 ore, Marco Logari e Gianni Trovati raccontano sulla manovra bis che cosa è allo studio. Beh, qualcosa l'abbiamo già visto, è abbastanza chiaro, l'accisa sulla benzina. Cari italiani, dovete rassegnarvi a questa genialata innovativa partorita, molto probabilmente si parla di 2 centesimi di aumento al litro. In ogni caso, Marco Rogali e Gianni Trovati raccontano un altro tipo di strategia che si basa sull'anticipo dei tempi, perché l'aumento dello spread rende sempre più vicino l'anticipo di una prima parte delle misure, con un decreto legge previsto nelle prossime settimane. Prende insomma quota l'ipotesi di un primo intervento per avviare l'aggiustamento dei conti pubblici italiani. Il varo di questo primo pacchetto di misure correttive potrebbe arrivare anche entro la fine del mese. E tutti i dettagli sono in questo articolo sul Sole 24 Ore. Tra l'altro è tornato a parlare il ministro dello sviluppo economico Carlo Calenda, che già in un'intervista al Corriere della Sera era stato chiaro, pur parlando a titolo personale, ha detto qualche giorno fa: non esiste andare a votare, è a rischio il sistema paese. Ecco allora che Repubblica con Roberto Mania va a intervistare nuovamente il ministro dello sviluppo, perché ora che lo spread ha superato 200, si confermano un po' i timori che Calenda aveva già messo avanti qualche giorno fa. E dice il ministro allo sviluppo intervistato su Repubblica: è un incubo uscire dall'Unione, è comico chi sostiene l'Italexit. Parla di un'Europa che deve essere più forte nella dimensione esterna, difesa, commercio e migrazioni. Ci sono paesi pronti a fare un passo in avanti mentre altri non lo sono. E riguardo all'Europa a due velocità, ipotizzata da Angela Merkel, dice Calenda, l'Italia è un grande paese fondatore. È naturale che guidi il fronte di chi vuole integrare le politiche che attengono alla dimensione esterna. Anche da un punto di vista di immediato interesse nazionale abbiamo tutto da guadagnare in una gestione congiunta delle politiche di difesa e politiche migratorie. Poi torna, anche se in chiusura di intervista, marginalmente sul tema elezioni anticipate. Dice Calenda: la politica italiana ha spesso vissuto il contesto internazionale come un fastidioso contrattempo rispetto ai propri rituali, alle proprie dinamiche interne. Un errore che sarebbe davvero sbagliato ripetere oggi. È importante dirlo con chiarezza. Mi pare che gli ultimi dati sullo spread francese-italiano confermino la sensibilità dei mercati alle variabili politiche. Dunque, prima di ogni altra considerazione viene la sicurezza del paese e solo a partire da questo caposaldo si possono definire proposte e calendario politico. Così Carlo Calenda, che dunque ribadisce è bene non andare a votare. La politica italiana si concentra invece ancora sulla questione sindaco di Roma Virginia Raggi. La novità è che anche Romeo, Salvatore Romeo, ex capo della segreteria, colui che le ha intestato due polizze vita a insaputa del sindaco, ora è sotto inchiesta. L'accusa per lui, racconta Fiorenza Sarzanini a pagina 11, è di abuso d'ufficio con la sindaca. Questo è il titolo: concorso in abuso d'ufficio con Virginia Raggi. Dopo il sindaco, dopo Raffaele Marra, finisce sotto inchiesta Salvatore Romeo, il terzo dei cosiddetti quattro amici al bar. E ancora una volta al centro della contestazione ci sono le nomine decise dal sindaco di Roma. L'interrogatorio è fissato per domattina, come risulta dall'avviso a comparire che gli è stato notificato ieri, e in attesa di ascoltare Marra, che invece è detenuto per corruzione a Regina Coeli, l'inchiesta coordinata dal procuratore Paolo Ielo fa dunque un nuovo passo avanti. Tra l'altro Salvatore Romeo ieri, intercettato da qualche giornalista, l'abbiamo fatto sentire alle 6.30, dice sulle polizze perché le intestate Virginia Raggi: credo di non dover spiegare cose private a voi. Tra l'altro il 5 Stelle è anche alle prese con la questione dello stadio, lo stadio della Roma, no? Com'è l'hashtag che circola? Famo sto stadio. Tutti i giocatori della Roma si sono fatti riprendere con famo sto stadio, e Virginia Raggi ha convocato Totti dicendo: sì, facciamolo sto stadio, famo sto stadio, ma nel rispetto delle regole ti aspettiamo in Campidoglio per parlarne. E dunque si punta anche a Francesco Totti per rilanciare un po' l'immagine e rilanciare anche l'azione di governo a Roma, mentre Renzi è alle prese con un problemuccio, almeno questo racconta il giornale, relativo al suo amico e imprenditore Andrea Bacci, colui che ha ricevuto anche delle pistolettate, diciamo, colpi di proiettile su alcune sue proprietà. Oggi il giornale titola in prima pagina, con un'inchiesta di Chiara Giannini: non si trovano le fatture della villa di Renzi, indaga la finanza. Sono a pagina 13. Nei giorni scorsi qualcuno aveva esploso colpi di pistola contro la Mercedes di Andrea Bacci, imprenditore fiorentino amico di Renzi, indagato peraltro da Guardia di Finanza, Bacci, per una questione legata al ricorso abusivo al credito. E allora l'attenzione sarebbe puntata, scrive il giornale, in modo particolare sulla ristrutturazione alla villa di Renzi, di cui proprio Bacci si occupò nel 2004. Che fine hanno fatto le fatture relative a quei valori, ai lavori? Fonti vicine a chi indaga fanno sapere che non si troverebbero. Il dubbio quindi è lecito: sono semplicemente sfuggite a un occhio attento o l'imprenditore ha fatto manutenzione a casa dell'amico gratis o al nero? Questa è la domanda che pone il giornale, neanche tanto velatamente. Il mistero della villa di Renzi: la finanza non trova le fatture. Mentre sulla Verità c'è un attacco all'ex ministro renziano Maria Elena Boschi, perché la Verità titola in prima pagina: la Boschi promuove il suo Richelieu che non ha i titoli. È la vicenda, secondo Francesco Bonazzi a pagina 9, della nomina da parte del sottosegretario a guida dell'ufficio giuridico di Palazzo Chigi è stato messo Roberto Cerreto, che però, scrive La Verità, non ha una laurea in giurisprudenza come prevederebbe la legge, come prevede la legge, ma ha una laurea in filosofia. E dunque la Boschia ha insediato al suo Richelieu un filosofo scrive le leggi del governo. Questa è l'accusa della Verità. Meno male che noi abbiamo una persona che chiarisce sempre tutti i dubbi, tutte le incertezze. È il nostro Mauro Meazza. Buongiorno. Oh, Mauro. Buongiorno caro Alessandro. Cosa hai contro i filosofi? No, io niente contro. Ah, no, mi sembrava che tu fossi prevenuto in qualche modo. No. Tra l'altro, amo Platone, per esempio. Platone ad esempio mi risulta fosse un filosofo, adesso se non le cose non sono mutate. Come va dopo Platone, tra l'altro? Molto bene, ti ringrazio, c'è molta soddisfazione per come è andata la serata, mi sembra che anche per te sia stata un'ottima serata, no? Quindi sì. Volevo segnalarti che stai rischiando di consigliare l'accaparramento, che potrebbe essere un comportamento rilevante dal punto di vista penale, quando parli delle accise e del fatto di accaparrare appunto benzina. Insomma, vedi tu, ecco, io ti do questo consiglio, questo ammonimento. È una controreazione, diciamo, reazione. Sappi che ci saranno anche dei taglietti ai crediti d'imposta, perché anche di quello riferiamo sul Sole 24 Ore. E allora, per converso, invece ti segnalo che nelle pagine norme tributi, che tu devi leggere sempre religiosamente, certo, senza sconto alcuno, c'è l'annunciato l'arrivo di un opuscolo del Ministero dello Sviluppo Economico sulle agevolazioni per Industria 4.0, quindi magari prendiamo da lì, visto che prendono da là, e noi cerchiamo di prendere dall'altra parte. Ecco, questo è un po' il concetto, non chiarissimo, mi rendo conto, ma utile. Ti voglio segnalare, nella stessa pagina dove parliamo di accise si parla anche dei tempi di pagamento per le aziende sanitarie. Siamo sempre lontani dai tempi europei, andiamo addirittura con regioni che stanno sopra i 600 giorni per pagare una fattura. Altro non voglio dire, leggi a pagina 5 Roberto Turno. Sappi che faremo 5 nuovi hotspot, sai gli hotspot per i migranti? Sì. Ecco, gli hotspot ne attiveremo altri 5, oggi verranno annunciati, ma intanto puoi leggere tutte le anticipazioni da Marco Ludovico oggi nelle pagine di commenti. Molte altre cose ci sarebbero, ma vado molto svelto per segnalarti che si parla anche dello stadio della Roma che va avanti, hashtag famo sto stadio, questo è l'hashtag, so che tu sei molto social, e poi che ci saranno delle cose. Scusami, mi sono perduto, perché in realtà hai la mente un po' nella pagina di condominio. Ma io lo so, hai la mente un po' sulle nuvole. No. Da domenica sera hai la mente sulle nuvole. Alessandro, da te è mai capitato che il condomino ti dicesse adesso vi buco il pallone? Se me lo bucavano quando ero piccolo, avevo la vecchina. Quando si giocava in cortile usciva sempre il condomino che ti diceva adesso vi buco il pallone. A me lo bucavano, a noi lo bucavano da piccoli, c'era una vecchina terribile. A tutti quelli di una certa età, diciamo, non so ora, ai ragazzi attuali, ma a tutti è capitato, ora vi buco il pallone, bene, sappi che se leggi la pagina di condominio oggi come ogni martedì, sappi che non c'è reato di violenza privata. Bisognerà trovargli un reato differente per i condomini che minacciano e poi anche bucano il pallone. Tutto ciò premesso, come sempre, caro Alessandro, traffico! Perché Alessandro Mila. Cioè, questa l'hai tenuta da un anno, caro Peter. Da un anno. Caccia miseria. Sì, tienilo lì Sanremo un attimo, che poi ti dico due cose su Sanremo più avanti, verso il finale di rassegna stampa. Ti faccio una previsione. Allora, ricordate Francesca Sciauchi, ex collaboratrice del Papa, poi arrestata, poi c'è stato un processo, alla fine adesso è stata liberata. Ha scritto un libro sul Vaticano, viene intervistata da Stefano Feltri e Carlo Tecce per il Fatto Quotidiano. I veri dossier li tengo in un cavò, come mi insegnò Andreotti. Sono due pagine di interviste, secondo me qualcosa dice, molte cose non dice, anche ricordate c'era c'erano tutte delle vicende legate a presunte liaison sentimentali anche con Monsignor Balda, poi smentite, però su questo non ci sono domande. Dice Francesca Sciauchi: Francesco, cioè il Papa, ha avviato da tempo un'operazione di rinnovamento importante, non si ferma certo di fronte a qualche bambinata come questa, e cioè i manifesti apparsi a Roma. Ma chi davvero l'ha sponsorizzata per la nomina nella commissione Cosea in Vaticano, Sciauchi? Rimane in me il dubbio, risponde lei, di chi ha preso la decisione effettiva. Di sicuro mi ha proposto Monsignor Balda, ma non so poi chi ha detto sì. E poi racconta appunto di questo cavò, un cavò nel quale mantiene tutti i dossier più scottanti, sembra quasi anche una velata minaccia. È un cavò, ho anche incaricato un notaio e ho iniziato la mia carriera grazie a Giulio Andreotti, da lui ho imparato l'importanza degli archivi. Ho messo nel libro quello che era importante per smontare certe ricostruzioni. Il resto lo userò solo se sarà necessario per il bene della Chiesa. Sentite voi se non sembrano un po' delle minacce, come dire, ho in mano qualcos'altro che al momento non svelo. Parla anche dei suoi rapporti con Matteo Renzi e i suoi genitori, chiede il Fatto Quotidiano, è una cosa questa che rimane riservata, ognuno ha le sue relazioni, posso solo dire che non volevano incontrare il Papa, abbiamo partecipato a un'udienza, siamo andati a mangiare nel refettorio di Santa Marta e mi hanno chiesto andiamo in udienza e così abbiamo fatto. Non risponde anche alla domanda, ma lei ha contatti con i servizi segreti, anzi risponde nel modo più classico, beh, ma se anche fosse ve lo direi. Questo Francesca Sciauchi, che viene intervistata dal Fatto Quotidiano, trovate l'intervista pagina 6 e 7. Vi segnalo su Repubblica, in prima pagina, è una bella lettura anche perché l'autore è uno dei massimi esperti di terrorismo internazionale, si tratta di Rukmini Kallimaki, che scrive per il New York Times, ma che qui riproduce un articolo per Repubblica, uscito sul New York Times e tradotto, Le armi e le chat, quei kamikaze teleguidati dall'ISIS. È un'approfondita inchiesta molto interessante di come i kamikaze dell'ISIS siano teleguidati, come siano in contatto con i loro capi, i loro reclutatori, ormai viaggia tutto in rete, anche perché scrive Kallimaki, da fine 2015 i viaggi in Siria ormai sono pericolosi. I servizi di intelligence di entrambe le sponde dell'Atlantico hanno fatto progressi nell'identificare aspiranti jihadisti, arrestandole a decine, mentre si apprestavano a imbarcarsi sui voli per Istanbul nella speranza di riuscire ad entrare in Siria. E allora si è potenziata da parte dell'ISIS il, come dire, controllo e le comunicazioni a distanza grazie alla rete. Tanto che, scrive Kallimaki in questo reportage per il New York Times che trovate su Repubblica, ormai l'ISIS può colpire ovunque nel mondo anche solo con contatti via chat. E questo certo non rassicura. Torniamo in Italia. Alcune notizie di cronaca. Succede a Roma, dove un giudice ha giudicato non reato un coro antisemita allo stadio. È intervenuto il Ministero della Giustizia con gli ispettori che vogliono verificare se è tutto a posto in questa sentenza. Sapete che c'è la legge Mancino, la legge che impedisce l'odio razziale, che lo considera reato, e racconta Dino Martirano sul Corriere della Sera, pagina 20, col placet del guardasigilli, ministro della giustizia Andrea Orlando, sono scesi in campo gli ispettori ministeriali, vogliono svolgere accertamenti sul giudice romano Ezio Damizia, che ha prosciolto, perché il fatto non sussiste, due tifosi della Lazio denunciati dalla Digos per aver incitato la curla dell'Olimpico a urlare giallo rosso ebreo. E poi anche Roma vai a insulti. Secondo il giudice non è reato. E quindi che è? La legge Mancino non è applicata negli stadi? Il ministero vuole vederci chiaro. Lo faccio vedere anche nella mia pagina Facebook, siamo in diretta, ringrazio Lorenzo Nespoli. Saltiamo invece in Calabria, dove il giornale racconta c'è un consiglio regionale un pochino tribolato. Un indagato su tre. Sono 30 i consiglieri regionali. Io cerco di fare vedere anche sulla mia pagina Facebook questo articolo, ma Lorenzo Nespoli è attratto da altre cose. E comunque, quel consiglio regionale con un indagato su tre. I reati dal voto di scambio alle accuse di mafia, c'è chi si è fatto rimborsare anche un gratta e vinci, è la triste statistica della Calabria, racconta Felice Manti. Per carità, essere indagati non vuol dire niente, bisogna essere garantisti, eccetera, però in Calabria un consigliere regionale su tre ha un'indagine. E poi c'è il dilemma dei 65 anni. Ma avere 65 anni, tu Lorenzo Nespoli lo sai bene, significa essere considerati anziani? Il Corriere dedica una pagina con Paolo Conti al dilemma degli over 65. Cari 65enni, cari 66enni, ribellatevi. Sapete che voglio mettere anche una legge per contrastare le truffe agli anziani. E hanno stabilito per anziani gli over 65. Allora, dichiararsi anziano a 65 anni o rinviare la quarta età? Eccolo il dilemma degli over 65 e lo vedete in diretta sulla mia pagina Facebook, e c'è una pagina sul Corriere della Sera. Va bene, com'era più la canzoncina? Si sa, si sa. Ma io non sono di quelli che faccio il radical chic con la puzza sotto il naso stasera, visto che ho la febbre mi metterò lì, guarderò anch'io Sanremo, ma chi se ne frega, va bene, però basta, tutti gli articoli, la prima volta di Maria, Maria De Filippi che si sente come Belen, il Libero che lo mette come titolo di prima pagina, Sanremo, e Sanremo, tutti gli articoli di Sanremo! Ma chi se ne frega!